Si vive male. Si vive solo per il lavoro. Quando ce n'è troppo e quando non ce n'è sei di troppo. Le giornate sono scandite dalla fatica. L'unico sollievo è quel po' di cibo che ti trascina fino al giorno dopo. Si dorme male. Si sviene. Non è richiesto pensare dopo affatto, le idee nuove sono un tragico. Quelle vecchie sono in mano a pochi. I soliti, immancabili, pochi. Si vive male. Si vive di notizie filtrate, azioni manipolate, decisioni già prese. E non si protesta. Ogni ragione ci viene ritorta contro e soffoca la voce diversa, non allineata, per non farla mai diventare muti. Muti e immobili a guardare tutto. E a non vedere una via d'uscita. Si vive male. E si vive così, alla fattoria di Willington. Questo forse pensa il cavallo con grano mentre risale il sentiero che dal campo di lavoro lo porta alla stalla. Certo, per un cavallo forte come lui il lavoro non è mai stato un problema, ma non ne ha visti parecchi di compagni salire sul carretto del veterinario e non tornare mai più. Questo forse lo pensa Muriel, una capretta che nella sua vita ha dato ettolitri di latte e una miriade di cucciolate al fattore Jones in cambio di un po' di fieno sporco. Questo di sicuro lo pensa il vecchio maggiore, un maiale di 12 anni, una rarità. Mai nessuno prima di lui nella fattoria di Jones aveva raggiunto quell'età, ma il fatto è che il vecchio maggiore ha un filo cucito. Un aspetto imponente, una stazza maestosa che gli hanno permesso di vincere per 3 anni consecutivi il premio di miglior animale alla fiera del Sussex. Un maiale che vale più da vivo che da morto. Anche per questo gli altri animali lo rispettano. A lui spetta il fieno migliore e qualche punto ogni tanto. Però non se lo dimentica il giorno in cui ha visto i resti dei suoi compagni appesi ad essiccare nella selleria dietro al granaio. E lo sa che presto toccherà anche a lui. Da quel giorno non è più lo stesso. Se ne sta sempre in disparte, non parla con nessuno, va a dormire a notte fonda. Gli altri animali lo lasciano fare. Qualcuno lo compatisce. Pensa che il fatto che si stia avvicinando alla sua fine lo stia rendendo pazzo. Però sono tutti eccitati nella fattoria, quando si sparge la voce che il vecchio maggiore vuole tutti riuniti nel granaio quella notte. In segreto. Tutti. Ora, compagni, di qual natura è la nostra vita? Guardiamola. La nostra vita è misera, faticosa e breve. Si nasce e ci viene dato quel cibo appena sufficiente per tenerci in piedi. E quelli di noi che ne sono capaci sono forzati a lavorare fino allo stremo delle loro forze. E nello stesso istante in cui ciò che si può trarre da noi ha un termine, siamo scannati con orrenda crudeltà. La vita di un animale è miseria e schiavitù. Questa è la cruda verità. Fa forse ciò parte dell'ordine della natura? Forse questa nostra terra è tanto povera da non poter dare una vita passabile a chi l'abita. No, compagni, mille volte no! Solo questa nostra fattoria potrebbe sostentare una dozzina di cavalli, 20 mucche, centinaia di pecore. E a tutti potrebbe assicurare un agio e una dignità di vita che vanno oltre ogni immaginazione. Perché allora dobbiamo continuare in questa misera condizione? Perché quasi tutto il prodotto del nostro lavoro ci viene rubato dall'uomo. Questa, compagni, è la risposta a tutti i nostri problemi. Essa si assomma in una sola parola. Uomo. L'uomo è il solo vero nemico che abbiamo. Si tolga l'uomo dalla scena e sarà tolta per sempre la causa della fame e della fatica. È un colpo di fucile quello che pone fine alla discussione del vecchio maggiore quella notte. Il fattore Jones si è svegliato, ha sentito baccano, ha sparato un colpo di avvertimento e tanto è bastato per far rientrare tutti gli animali dietro i loro recinti spaventati. Però da quella notte le parole del vecchio maggiore fanno germogliare il seme del dissenso nel cuore di ognuno di loro. L'idea che un mondo diverso è possibile. Non sanno come, non sanno quando, non sanno nemmeno che cosa dovrebbe accadere. Ma dentro ognuno di loro si fa spazio il pensiero della rivolta. E questa scoppia. Come spesso accade, a partire da un fatto assolutamente banale. Una domenica, Jones, il fattore, ha il carretto e si dirige a Willington per la fiera. In teoria dovrebbe vendere salami e prosciutti per fare un po' di soldi, in pratica parcheggia il carretto davanti all'osteria e va a sbronzarsi con i compagni. Torna a casa la sera talmente sbronzo che ha appena la forza di parcheggiare il carretto, sdraiarsi sul divano e si addormenta ubriaco fradicio. E si dimentica di dare da mangiare agli animali. Gli animali sono nella stalla a digiuno da 24 ore. Era già successo che stessero a digiuno, che aspettassero un po' di più. Qualche ora, anche una mezza giornata. Qualche grugnito, qualche scalciata e la cosa finiva lì. Ma 24 ore sono tante. Troppe. Gli animali sono dietro ai loro recinti. E davanti a loro paglia e fieno in abbondanza. E a un certo punto uno di loro fa la cosa più logica che si possa immaginare. Abbatte il recinto e inizia a mangiare. Prima uno, poi un altro, poi altri due. Poi tutti insieme abbattono il recinto e si arrotolano nella paglia e nel fieno, mangiano fino a scoppiare. Chi l'ha mai vista tutta quell'abbondanza? Il loro baccano sveglia il fattore Jones, che chiama a raccolta i suoi uomini, deciso a dare agli animali una lezione che questa volta non dimenticheranno. Jones e i suoi uomini sfondano la porta del granaio armati di forcone, certi di sedare la rivolta degli animali a suon di bastonate. Quelli alzano gli occhi dal cielo, pronti a fuggire in ogni direzione, però stavolta è un attimo, uno sguardo appena, non concordato. Gli uomini sono quattro, loro sono molti di più. Sono fuori adesso, sono liberi, non si sottomettono. Gli animali si lanciano alla carica contro Jones e i suoi uomini. E prima ancora che questi si rendano conto di essere attaccati, si trovano a terra, sospinti, battuti, presi a calci, disarmati, disarcionati, ridicolizzati. E prima ancora che il fattore Jones riesca a imprecare un ordine qualsiasi ai suoi uomini, si ritrova a caracollare giù per la collina, tenendosi le braccia con una mano, mentre con l'altra sventola dietro il sedere da scacciare i morsi e le zampate degli animali che lo inseguono. E adesso, che anche l'ultimo dei suoi uomini ha scavalcato il recinto della fattoria terrorizzato, quella notte surreale ha finalmente il nome che merita. Rivoluzione! Rivoluzione? Sì, le rivoluzioni nascono così, Non c'è mica il tempo di prepararsi. Non diventate come gli uomini. Il vecchio maggiore ne aveva messi in guardia. Il vecchio maggiore era un maiale. I maiali sono gli animali più intelligenti di tutti. Hanno imparato di nascosto a leggere e a scrivere. Hanno capito per primi, fin da subito, che c'è un momento. Che nessuno sa qual è quel momento, O perché è proprio quello il momento. Perché non prima e non dopo, ma quel preciso momento c'è. Il momento nel quale la rivoluzione scoppia. Ed è lì che bisogna farsi trovare pronti, organizzati, preparati, investiti di tutto punto. E i maiali si sono fatti trovare pronti. Due di loro in particolare, Palla di Neve e Napoleon, si sono fatti trovare pronti. Mettono a bando la casa economica. Poi si ritrovano tutti quanti nel granaio. E lì, dove il vecchio maggiore appena 3 mesi prima aveva tenuto il suo discorso, ora, lì di comune accordo, danno inizio ad una nuova era. Alla prima fattoria in tutta l'Inghilterra. Anzi no, alla prima fattoria in tutto il mondo, dove la terra ed il lavoro avranno un solo padrone: gli animali! Schiavi né padroni, al posto dei bastoni e delle catene, la fratellanza, al posto delle complicate inutili leggi dell'uomo, 7 comandamenti, 7 semplici regole che da quel momento in poi avrebbero determinato il loro vivere civile e in armonia. Primo comandamento: tutto ciò che cammina su 2 gambe è nemico. Secondo: tutto ciò che cammina su 4 gambe o ali è amico. Terzo: nessun animale vestirà abiti. Quarto: nessun animale dormirà in un letto. Quinto: nessun animale verrà alcolici. E poi, i comandamenti più importanti di tutti. Sesto: nessun animale ucciderà un altro animale. Settimo: tutti gli animali sono uguali. Sì, in realtà le cose non furono così semplici. I maiali impararono subito a leggere e a scrivere. Per gli altri animali il processo di apprendimento fu un po' più accidentato. E il cavallo Gondrano, un cavallo così forte che poteva svolgere il lavoro di 4 animali messi assieme, con la stessa determinazione con cui lavorava, si gettò a imparare l'alfabeto e imparò subito, le prime 4 lettere. A, B, C, D. Poi via con le seconde 4. E, F, G, H. E dimenticò le prime 4. Le galline, le papere ci provarono, ma con risultati fra il deprimente e il disastroso. Muriel, la capretta, con un po' di tempo, un po' di pazienza, imparò a leggere e a scrivere. I cani imparavano subito, a leggere e a scrivere, però solo quello che c'era scritto sulla parete di fondo del granaio. Per i cani il mondo della letteratura iniziava col primo e finiva col settimo comandamento, però almeno ci avevano provato. Le pecore non ci provarono nemmeno. Il più abile a leggere e a scrivere era un maiale. Clarinetto il maiale. Bravissimo con le parole lui, un oratore. Fu lui che scrisse i comandamenti sulla parete di fondo del granaio, e fu sempre lui che, per venire incontro alle ridotte capacità di apprendimento degli altri animali, elaborò un solo semplice comandamento che riassumesse lo spirito degli altri sette. Quattro gambe buono, due gambe cattivo. Semplice? No, fin troppo semplice. Infatti da quel momento le pecore non fecero altro che pelare. Quattro gambe buono, due gambe cattivo. Quattro gambe buono, due gambe cattivo. Quattro gambe buono, due gambe cattivo. Non che capissero quello che dicevano, Però gli piaceva così la sonorità, il suono. Del resto, far comprendere agli altri animali il pieno significato delle parole del vecchio maggiore è un lavoro lungo, difficile, un lavoro per il quale non c'è tempo. Gli animali non imparano a memoria i comandamenti e non li sanno leggere. Però senza saperlo già li seguono. Sono dentro di loro. Per questo non c'è pena perché li trasgredisce. Solo chi dimentica o ignora che cosa vuol dire essere animali può violare i principi dell'animalismo. E allora? Sette semplici regole, scritte a caratteri cubitali sulla parete di fondo del granaio, così grandi che tutti potevano vederle da 30 metri di distanza. Non le sanno leggere. Ma gli animali si svegliano la mattina allegri come bambini all'alba di Natale. Aprono gli occhi e per la prima volta in vita loro si sentono liberi. Poi si radunano tutti nel prato davanti al frutteto e al piccolo torto, dritti, impettiti, fanno il giro di tutto il perimetro della fattoria, come a segnare il nuovo confine della loro libertà. Arrivano davanti al cancello, quello dal quale hanno visto Jones e i suoi uomini precipitarsi fuori la sera prima. Il cavallo lontano abbatte con un calcio il cartello con la scritta fattoria padronale e Palla di Neve attacca un cartello di legno con una scritta bianca. Fattoria degli animali. Bella la libertà. Mai nessuno di loro l'aveva mai nemmeno immaginata. Sì, le parole del vecchio maggiore avevano acceso una scintilla nel cuore degli animali, però una cosa è pensare alla libertà. Una cosa è essere liberi davvero. C'è tanto da fare, Riorganizzare la fattoria, sopperire la mancanza degli strumenti non è un compito facile, però vuoi mettere l'entusiasmo. Vuoi mettere la soddisfazione di lavorare per se stessi, per il proprio benessere, non per ingrassare il ventre di un padrone vorace e schiavista. Ognuno di loro si dedica al lavoro con maggiore energia di quanto essi stessi si ritenevano capaci. A nessuno viene in mente di rubare, nemmeno un chicco di grano. E non si sentono più discussioni, nemmeno durante le mansioni più faticose. Il cavallo Gondrano elabora una sua personale risposta contro ogni difficoltà. Lavorerò di più. Con la forza dei suoi muscoli e l'intelligenza dei maiali tutto è possibile. Bella la libertà. Anche la libertà ovviamente ha bisogno delle sue regole, per cui viene stabilito fin dall'inizio che ai maiali spetta il compito di decidere per tutto quello che riguarda l'organizzazione della fattoria, e le loro regole vengono poi ratificate democraticamente da una maggioranza di voti. Fin dall'inizio, Palla di Neve si dedica subito all'istituzione di comitati per l'istruzione degli animali. Invece Napoleon si dedica a crescere le nuove generazioni. Nella selleria, a riparo da sguardi indiscreti, si dedica personalmente all'educazione di 9 cuccioli di cane, lontano dal caos, talmente lontano che ben presto gli altri animali della fattoria si dimenticano persino della loro esistenza. Alle riunioni spesso Palla di Neve ottiene la maggioranza grazie ai suoi brillanti discorsi, però Napoleone è più abile a prendere per sé i voti degli elettori. Particolare successo poi lo ottiene tra le pecore, che negli ultimi tempi hanno preso a pelare quattro gambe buono, due gambe cattivo, a proposito e a sproposito, e spesso interrompono le riunioni, specialmente nei punti culminanti del discorso di Palla di Neve. Quei due discutono sugli argomenti più disparati. Per Napoleone bisogna procurarsi armi da fuoco e addestrarsi. Per Palla di Neve bisogna spedire stormi di piccioni per suscitare la rivoluzione nelle fattorie limitrofe. L'uno pensa che se non avessero saputo difendersi da soli erano destinati a soccombere. L'altro che se la rivoluzione scoppiava dappertutto non ci sarebbe stato più nessun bisogno di difendersi. Gli animali ascoltano prima Napoleone, poi Palla di Neve. Non sanno decidere, sono sempre d'accordo con chi parla in quel momento. Alla fine dell'estate il racconto è più abbondante del solito. Il loro lavoro ha affrontato più grandi di quanto Jones e i suoi uomini avessero mai ricavato. Il frutteto, coperto di neve mature, longitudine delle vacche si ottengono litri e litri di latte fresco in abbondanza. Ora, è opinione comune che il latte e le mele in abbondanza vengano divisi equamente fra tutti gli animali della fattoria, giusto? La libertà è di tutti, giusto? Quindi i suoi frutti sono di tutti. Tutti gli animali sono uguali. E allora perché il latte e le mele sono soltanto nel mangime dei maiali? Prima che gli altri animali elaborino nella loro testa le parole per esprimere il dissenso, un maiale, clarinetto, dà loro una spiegazione. Compagni, voi non immaginerete, spero, che noi maiali facciamo questo per spirito di egoismo o di privilegio. A molti di noi realmente ripugnano il latte e le mele, anche a me non piacciono. Il solo scopo nel prendere queste cose, compagni, è di preservare la nostra salute. Il latte e le mele, e ciò è garantito dalla scienza, compagni, contengono sostanze assolutamente necessarie per il benessere del maiale. Tutto l'andamento e l'organizzazione della fattoria dipendono da noi. È per il vostro bene che noi beviamo quel latte e mangiamo quelle mele. Lo sapete che cosa accadrebbe se noi maiali dovessimo venir meno al nostro dovere? Jones ritornerebbe. Sì, compagni, Jones ritornerebbe. E io sono sicuro che non c'è nessuno fra voi che voglia il ritorno di Jones. Jones. Che fine aveva fatto Jones? Non una bella fine, eh? Le prime due settimane le aveva passate all'osteria in un angolo da solo a sbronzarsi, preso in giro da suoi compari. C'era da capirli, farsi cacciare dalla propria fattoria da un branco di cavalli, oche, papere, galline, non aveva fatto una bella figura. E poi gli uomini erano certi che questa storia della rivoluzione sarebbe finita in poco tempo. Invece la fattoria degli animali non cedeva, anzi prosperava. E qualcuno aveva cominciato a vociferare che si vedevano stormi di piccioni uscire dalla fattoria e recarsi nelle fattorie limitrofe. E gli uomini ebbero paura. Paura che quest'idea della rivoluzione potesse diffondersi. E fu grazie a questa paura che Jones riuscì a mettere insieme un piccolo drappello di uomini deciso a riprendersi ciò che prima gli apparteneva. Ma gli animali non erano stupidi. Palla di Neve e Napoleon sapevano benissimo fin dall'inizio che Jones avrebbe provato a riprendersi la fattoria. E si erano preparati per tempo. Così una mattina, alle prime luci dell'alba, Jones, insieme a un piccolo drappello di uomini, venne visto uscire dal boschetto e incamminarsi sul sentiero che portava alla fattoria. Le vedette diedero l'allarme e dissero agli animali di tenersi pronti in posizione. Il drappello di uomini si schierò ordinatamente davanti al cancello e serrò le fila. Napoleon fece cenno alle vedette di sparire e agli animali di tenersi pronti. Jones, il fattore, imbracciò il suo fucile e con una fucilata abbatté il cartello con la scritta Fattoria degli animali. Quello fu l'inizio della leggendaria battaglia del chiuso delle vacche. Gli uomini si schierano sul campo con le Benosse e Tomcat al centro dell'attacco, Jim Coe e Starship sulle fasce, arretrato il solo capitano Jones. Gli animali, padroni di casa, formazione al completo, si schierano distribuendosi strategicamente lungo tutto il campo. Fischio della prima pallottola, sono subito gli avversari che partono all'attacco, sfondano il cancello e salgono su per la via carreccia della fattoria armati di bastone. Arretrato il solo capitano Jones, probabilmente in attesa dell'occasione propizia nella quale sferrare uno dei suoi micidiali colpi di fucile. Gli uomini si avvicinano ai caseggiati, ma ecco che parte la controffensiva degli animali che spingono sulle fasce di fieno contro gli avversari. I piccioni sbucano dal cielo sganciando proiettili di origine biologica fatti partire con del chirurgica precisione. Gli uomini parlano come possono, ma in attacco combinato ecco che sbucano le papere dalle siepi e puntano dritti alle caviglie degli uomini, che però hanno gioco facile nel sedare l'attacco del veticciato di volatili. E ora Napoleon, allenatore degli animali, senza scomporsi, lancia un secondo attacco. Avanza il gregge al centro del campo, un asino, una papera, una dozzina di pecore superano la mediana. Ecco che sale la difesa, sono subito gli allievi che spingono, mettono in difficoltà gli uomini, ma Coe e Ship convergono verso il centro, riescono a liberare e ora aggrediscono il contropiede del gregge, che è costretto a ripiegare sul proprio stazzo. Adesso gli animali appaiono disuniti e gli uomini approfittano degli ampi spazi lasciati a disposizione per avanzare a grandi falcate verso il cortile. Gli uomini si avvicinano ai caseggiati, non si vede la controffensiva degli animali ed ecco che Jones sbuca da dentro via e punta dritto verso la casa colonica. Gli uomini stringono verso il recinto, piccolo ma gli animali si chiudono in un catenaccio a cerchiante, uno schema evidentemente provato più volte. volta in vista della sfida. Ora gli uomini sono in gabbia e Gondrano, libero di grande forza che mostra tutta la sua fama di fuoriclasse, una scorpiciata, un colpo di testa, un colpo di tacco, un colpo di coda e spazza l'area dagli avversari mettendoli in fuorigioco. Il fattore Jones si volta indietro, guarda i suoi compagni in fuga, imbraccia il fucile, prende la mira, riesce in qualche maniera a far partire la pallottola, ma palla di neve, capitano degli animali, riesce a intervenire in contrasto e il colpo, un tocco, una pecora cade davanti all'area, è rigore mortis, per la pecora non c'è più niente da fare, rabbia disumana, proteste bestiali da parte dei padroni di casa, palla di neve però non si distrae, continua la sanzione su Jones, una marcatura asfissiante, il fattore cerca di vincolarsi ma scivola, perde il fucile, tenta di recuperarlo con un colpo di reni ma palla di neve lo degna nella stalla laterale, ora l'uomo si rialza a fatica, cerca disperatamente di buttarsi in fuga giù per la collina, palla di neve lo insegue, gli addosso, Jones tenta l'ultima finta ma palla di neve in controtempo, un calcio lo colpisce e con una parabola millimetrica lo spedisce al telecinto, è fuori, gli uomini si danno la fuga terrorizzati mentre gli animali si abbandonano all'entusiasmo, gli animali hanno vinto. Le vittorie fugano sempre tutti i dubbi. L'uomo appartiene al passato, uniti possono farcela. Uniti. C'è una controversia tra Palla di Neve e Napoleone. Aspra. Riguarda la costruzione del mulino. Non è uno stretto di termine del cielo. Palla di Neve vede nella realizzazione del mulino il passo decisivo verso una vita davvero migliore per tutti. Sarebbe loro ciò che ancora manca. L'elettricità. Stalle illuminate, riscaldate, un tranciapalla, una fregatrice elettrica per le barbabietole, una macchina per la mungitura delle vacche. Gli animali ascoltano stupiti mentre Palla di Neve evoca davanti ai loro occhi immagini di macchine fantastiche che farebbero tutto il lavoro che prima aspettava loro. Risparmierebbe tanto di quel lavoro che non dovrebbero più affaticarsi che per 3 giorni alla settimana. La grande necessità in vista dell'inverno però è quella di accrescere la produzione di viveri. Al voto! Votate per Palla di Neve e la settimana di 3 giorni. Votate per Napoleone e la mangiatoia piena. 2 idee, 2 modalità diverse di esprimersi, entrambe vantaggiose, chiare e comprensibili. Accorrete alla prima votazione democratica della fattoria degli animali. Non è una scelta fra 2 idee, è una scelta fra 2 candidati. I 2 sfidanti esprimono le loro ragioni, ma l'elettorato rimane incerto. All'improvviso Palla di Neve scatta in piedi e pronuncia un'appassionata perorazione in favore del mulino. La sua eloquenza è il sopravvento. L'immaginazione di Palla di Neve va ben oltre il trinciapaglia e l'affettatrice di barbabietole. L'elettricità può muovere aratri, rastrelli, rulli, macchine per falciare il grano, per legare i gomoni. Non è un punto d'arrivo, è l'inizio di una nuova concezione della vita. Ha finito di parlare e nessun animale dubita più di dare il suo voto. Gli animali votano! Questi già se imparano un comandamento a memoria è un miracolo. guardare con quello sguardo, hai capito? Ma quale popolo vuoi cambiare con le tue parole? Questo? Ma non le vedi? Tu gli parli di mulino a vento e qui ci sai che si immaginano? Niente. Allora tu lì a riempire di parole le loro teste bacate, se gli dici compagni, mulino non ci farà più lavorare, ci darà tempo di leggere, di conversare, qui ci sai che pensano? Pensano che arriva questo grande maiale che fa tutto il lavoro che prima aspettava loro e si sentono felici. Ma poi lo sai che pensano? Pensano che in fondo a loro di leggere e conversare non gliene frega niente. E allora qualche dubbio gli viene su questo maiale a vento. Meno lavoro, più cibo per tutti. È facile vincere con le promesse, eh? Ma poi? Ma veramente pensi di costruire un mulino con un manuale per l'elettricità? Il mulino non è semplice, mica come la libertà. Per il mulino ci vogliono organizzazione, conoscenza che... Senti a me, tu chiacchiera, e puoi darsi pure che loro li fai fessi, ma le cose non si dicono, si fanno. Le rivoluzioni non si fanno con le parole, ma con la forza. Perché il mulino ci darà questo, quest'altro, vivremo liberi, felici, hai detto quello che dovevi dire, ma stini attaccato al maiale. Guarda, guarda come fugge. Dove fuggi, palla di neve? Perché non chiami il mulino a difenderti? Non è la fonte della vita, non è il progresso, di ciò il progresso deve venirti a salvare. Guarda i tuoi compagni, immobili, mentre scappi inseguito dai cani, eh? E li avevi proprio convinti con le tue parole, eh? E viva le parole, i sogni e il potere. Adesso ve le dico io. Da questo momento in poi non ci saranno più assemblee, riunioni, decisioni in comune o altre perdite di tempo. Il compito di decidere spetta a chi può decidere. A noi. Il compito di obbedire spetta a chi deve obbedire. A voi. La domenica, come sempre, ci riuniremo per cantare Animale d'Inghilterra, il nostro inno. La seduta è tolta. Detta così può sembrare ostile. Forse persino contraria allo spirito democratico della rivoluzione. Sì, in democrazia è facile sbagliarsi. Non si può essere sempre fiscali e prevenuti. Bisogna imparare a essere flessibili, a saper leggere tra le righe. Per esempio, con perdita di tempo, Napoleone intendeva dire in realtà che dal momento che si è stabilito fin dall'inizio che spetta ai maiali il compito di decidere per l'organizzazione della fattoria, è inutile affaticare gli altri animali già stanchi dal lavoro di tutta la settimana, no? Un po' di riposo. E per risparmiare tempo, per semplificare, per snellire un sistema che fin dall'inizio stava già diventando troppo farraginoso. E poi si sa, la rivoluzione è come un viaggiatore, no? Senza bagagli si sposta più rapidamente. Gli altri animali sono allibiti da quest'annuncio. Molti di loro protesterebbero se potessero, ma le giuste ragioni hanno bisogno di giusti argomenti. E il più abile a trovarli è sempre quel maiale. Clarinetto, il maiale. Apprezzare il sacrificio che il compagno Napoleone ha fatto prendendo sopra di sé questo maggior lavoro. Non pensate, compagni, che la direzione sia un piacere, al contrario, essa è una grande e pesante responsabilità. Nessuno più del compagno Napoleone è convinto che tutti gli animali sono uguali. Troppo felice vi sarebbe di farvi prendere da voi stessi le vostre decisioni, però può darsi che prendiate le decisioni sbagliate. E che cosa avrebbe? Supponiamo che voi aveste deciso di seguire Palla di Neve con il suo mulino campato per aria. Palla di Neve che, come ora sappiamo, altro non era che un criminale. Ha combattuto valorosamente la battaglia del chiuso delle vacche, è vero compagno, ma il valore non basta. La lealtà e l'obbedienza sono assai più importanti. E quanto alla battaglia del chiuso delle vacche, sono sicuro che verrà presto il giorno in cui scopriremo che il ruolo avuto da Palla di Neve fu di molto esagerato. Disciplina, compagni, disciplina ferma, questa è la parola d'ordine. Un passo falso e i nostri nemici ci sopraffaranno. E io sono certo che non c'è nessuno fra voi che voglia il ritorno di Jones. Dopo, così in via del tutto privata, confidenziale, Clarinetto spiega che in realtà Napoleon non è mai stato contrario al progetto del mulino. No, anzi, sua era l'idea. Sì? Il disegno del mulino fatto sul pavimento della baracca da palla di neve era stato in realtà rubato dalle carte di Napoleon. È evidente, no? Dai, gli altri animali l'avevano sicuramente capito. Magari ancora non tutti avevano le idee chiare. Lui gli apre gli occhi. Il mulino è una creazione di Napoleon. Perché allora si è opposto con tanta veemenza? Perché era una scusa. Perché Napoleon ci ha assunto il compito di guidare la fattoria? Compagno, il potere è uno strumento complicato da gestire, altro che... L'opposizione di Napoleon al mulino era stata una manovra, no? Una finta per sbarazzarsi di Palla di Neve, che ha un carattere difficile, un'influenza cattiva. Ora che non c'è più Palla di Neve, si può realizzare il mulino. Si chiama tattica. Tattica, compagni, tattica. Si esprime bene, però. I tre mastini che lo accompagnano si esprimono ancora meglio. La terra gemella come il ferro, non si può lavorare nei campi, il momento ideale per iniziare la costruzione del mulino. Mancano però alcuni materiali. Napoleon, senza consultare gli altri animali, avvia relazioni commerciali con gli uomini delle fattorie limitrofe. Mai trattare con gli uomini, gli animali ricordano, o almeno credono di ricordare, quelle che sono le parole del vecchio maggiore, ma come fa notare Clarinetto? Non è scritto da nessuna parte. E così prendono avvio i lavori per la prima produzione mai concepita e realizzata dagli animali, che naturalmente prenderà il nome dal suo ideatore e progettatore, e si chiamerà Mulino Napoleon. Naturalmente, per procurarsi i materiali edili c'è bisogno di risparmiare sul cibo, quindi viene stabilito un razionamento del cibo per gli animali. Il cibo dei maiali non è soggetto a razionamento. Bisogna anche aumentare le ore di lavoro, quindi si passa da 8 a 10, a 12, a 15 ore di lavoro al giorno, sabato e domenica compresi. Il lavoro degli animali non è soggetto, invece, quello dei maiali a tornazione. Ovviamente bisogna anche fare spazio ai materiali edili, quindi tutti gli animali vengono ammassati per la notte in un'unica stalla. I maiali si trasferiscono nella casa colonica e dormono nei letti. Però i letti non si può. I letti non si può, questa volta è scritto, Clarinetto, è uno dei comandamenti. Nessun animale dormirà in un letto, è scritto qui. Energia alla stella nascente della rivoluzione, loro dovrebbero arrendersi, perdere tutto questo. uccidere un uomo basta sparargli in testa. Un colpo. Uccidere un maiale e un coltello alla gola, bene affilato. Un gesto in entrambi i casi. Preciso ma non per forza esatto. Uccidere una democrazia bisogna essere esatti. Centrare il suo cuore pulsante. La speranza. E la speranza quella notte aveva le sembianze del mulino distrutto dalla tempesta. La rivoluzione li aveva resi padroni, ma davanti alle macerie del mulino ognuno di loro tornava ad essere quello che era sempre stato destinato ad essere. Una bestia. Bestie. Esistono parole per descrivere la morte di un sogno. Esistono. Esistono ed esistono se esiste un colpevole che dia un senso a quel risveglio maledetto. Ogni guerra ha bisogno di un nemico. Per combattere bisogna avere un ideale. E un nemico ideale. L'eterno riposo non dovrebbero essere cristiani. anzi, dovrebbero brindare. Sì, brindare, festeggiare, brindiamo, tanto più che in un deposito segreto della casa colonica sono appena stati scoperti 8 fusti di birra. Festeggiamo! I maiali brindano fino a tarda notte. Alcuni gattini giurano di aver visto Napoleone verso le 3 del mattino precipitarsi fuori dalla casa colonica con in testa il cappello di Jones e poi percorrere al piccolo trotto tutto il recinto della fattoria e rituffarsi nella casa colonica. La mattina dopo viene ufficializzata la decisione di coltivare orzo e distillare birra. Ah sì, sì, è scritto, nessun animale verrà alcolici. In eccesso. Sempre lì, affidarvi della vostra memoria, di fronte all'evidenza inoppugnabile dei fatti. Amici, compagni, popolo. Ma che c'è, l'avete dimenticato? Non volete mica di nuovo chiudervi dietro dei recinti? Ve lo ricordate? Abbiamo una coscienza! Sappiamo stabilire da soli i nostri limiti, nel rispetto e nell'interesse della comunità, si capisce? Mica vogliamo ritornare ai tempi di Jones? Come si stava ai tempi di Jones? Chi era Jones? Il padrone? Il capo? Non sapete leggere il cartello lì fuori? Fattoria degli animali! Alla fattoria degli animali non esistono padroni, l'unica fattoria in tutta l'Inghilterra governata dagli animali! Cos'è? Non sapete più apprezzare la libertà? Ve lo ricordate? Dove prima c'erano le loro regole, adesso ci sono le nostre regole. Prima lavoravamo per loro, adesso lavoriamo per noi. Prima erano loro i padroni, adesso siamo noi i padroni! Che cosa c'è? Siete troppo vecchi per apprezzare la libertà, eh? Non vi orientate! I giovani consigli ridono sguagliati. Ma che ne sanno? Che ne sanno loro della rivoluzione? Loro nemmeno c'erano, che ne sanno delle battaglie, dei comandamenti? Del mulino. Loro nemmeno c'erano. Si divertono a immaginare il futuro, ma la voglia di guardare il passato non ce l'hanno. E c'era. C'era tanto altro. I pochi reduci qualche cosa ancora se la ricordano. Resili, nebulose, Muriel. Una sera, ormai vecchia, mentre torna dal campo di lavoro verso la stalla, sente provenire dalla casa colonica degli schiamazzi. Vede delle luci alla finestra, si affaccia e oltre le tendine vede maiali e uomini parlano insieme. Gli uomini brindano con dei calici e anche i maiali brindano con dei calici. E gli uomini sono vestiti e anche i maiali sono vestiti. E gli uomini sono in piedi e anche i maiali sono su due zampe. E non sa se è per l'età, per il tempo che è passato, per la vista che non è più la stessa, ma non riesce più a vedere la differenza. Si ricorda che c'era una differenza. Si ricorda dei comandamenti. Si ricorda a malapena dove erano scritti. Sulla parete di fondo del canale. La parete è ancora lì. Resiste. I comandamenti. Stati cancellati. Ne è rimasto soltanto uno, in cima, il residuo, la nebulosa, scritto a caratteri cubitali. Tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri. Si vive male. Si vive così. Poco mi rimane ancora da dire. Solo ripeto di ricordar sempre il vostro dovere di inimicizia verso l'uomo e tutte le sue arti. Tutto ciò che cammina su due gambe è nemico. Tutto ciò che cammina su quattro gambe o ha ali è amico. E ricordate pure che nel combattere l'uomo non dobbiamo venirgli ad assomigliare. Anche quando l'avrete distrutto, non adottate i suoi vizi. Nessun animale vada mai a vivere in una casa o dorma in un letto. presta mani, o beva alcolici, o fumi tabacco, o maneggi denaro, o faccia commercio. Tutte le abitudini dell'uomo sono malvagie. E soprattutto, nessun animale divenga tiranno ai suoi simili. Deboli o forti, intelligenti o sciocchi, siamo tutti fratelli. Mai un animale uccida un altro animale. Tutti gli animali sono uguali.